Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per meditare sulla figura di Gesù nell'Antico Testamento, quale divinità degli ebrei e dei cristiani. Oggi parleremo della polideità dell'Elohim. Le riflessioni di oggi mettono in evidenza che la fede dei cristiani non sia nata 2000 anni fa e che neppure sia così illogica come sostengono gli oppositori. Nel mondo sono tre le religioni monoteiste che si rifanno all'unica origine: ebraica, islamica e cristiana. Mentre la religione ebraica e quella islamica professano un monoteismo assoluto, i cristiani professano un monoteismo plurale. Credono sì in un unico Dio, ma in seno al quale sussistono tre persone uguali e distinte. Per comprendere la differenza tra monoteismo assoluto e monoteismo plurale, possiamo prendere ad esempio la differenza che passa tra la mela e un grappolo d'uva. Quando parliamo di una mela, abbiamo l'idea di una singola cosa, mentre evocando l'immagine di un grappolo d'uva, abbiamo sì l'immagine di una singola cosa, ma composta di tanti acini. È evidente che ogni esempio teso a far comprendere la natura di Dio sia limitato, perché in natura nulla è paragonabile all'unità di Dio. L'esempio della mela e del grappolo d'uva, però, rende l'idea che in natura esistono l'unità assoluta e l'unità composta. Da dove è nata l'idea dei cristiani di credere in un unico Dio in tre persone? Dalla fede ebraica professata dagli ebrei, i quali, tuttavia, tuttora continuano a professare un monoteismo assoluto. Non poteva essere diversamente, perché la fede cristiana è l'unica fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè quella ebraica. La fede dei cristiani, quindi, non è nata 2000 anni fa, ma essa è il proseguimento della fede ebraica. Non possiamo dimenticare che Gesù e gli apostoli fossero ebrei. Essi non avrebbero mai creduto ad una fede che non fosse quella rivelata ai padri. Essi non avrebbero mai rinnegato la fede in Yahweh, fede che si perdeva nella notte dei tempi. Predicando un'altra fede, infatti, Gesù e gli apostoli avrebbero voluto affermare che la fede dei loro padri fosse sbagliata. Non rimane quindi che accettare che la fede cristiana non sia altro se non la prosecuzione e il compimento della fede ebraica. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo considerato che la scrittura attribuisse alla divinità di Israele dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Abbiamo preso atto che Yahweh, Elohim e Adonai non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina, poiché solo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Perciò la scrittura usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato ed egli stesso lo ha rivelato per la prima volta a Mosè. Abbiamo pure considerato che la fede dei santi dell'Antico Testamento non era in un Elohim, una divinità vaga, ma era appunto in Yahweh. Nell'ultima trasmissione abbiamo concluso che Yahweh, benché si presenti come una divinità singola, parla al plurale, dando l'idea che in seno alla divinità ci sia una polideità. Il termine polideità esprime una molteplicità numerica di persone uguali come natura, ma distinte come persone, nelle relazioni in seno alla Deità, cioè la natura unica di Dio. In definitiva, esiste una pluripersonalità nella divinità. Il termine rivela una molteplicità o una vita comunitaria nell'unico Dio. Come abbiamo considerato, due dei tre nomi della divinità di Israele e dei cristiani, cioè Elohim e Adonai, sono al plurale. Grammaticalmente Elohim è plurale in ebraico ed essendo tale si dovrebbe tradurre letteralmente di. In effetti, i traduttori hanno reso la parola Elohim al plurale, cioè con dei, quando essa è riferita ad una divinità straniera. Ecco il comandamento di Yahweh nel libro dell'Esodo. Non farai alleanza alcuna con loro né coi loro dei. Essi non abiteranno nel tuo paese perché non ti facciano peccare contro di me. Tu serviresti ai loro dei e questo ti sarebbe un laccio. Yahweh era diventato la divinità del popolo di Israele traendolo fuori dalla schiavitù d'Egitto ed ora rivendica per sé il loro culto. Yahweh sostiene di essere l'unica divinità. L'apostolo Paolo ha ben sottolineato questa verità. Ascoltiamo la lettura nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 8. Anche se vi sono i cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Il termine al plurale Elohim è talmente frequente nelle scritture che lo troviamo nel primo versetto della Bibbia. Nel principio Elohim creò i cieli e la terra. Se osserviamo bene, questa specie di plurale maestatis ha dell'incredibile in un contesto di assoluto monoteismo, ammesso che, al momento della redazione dei testi, si avesse il concetto di assoluto monoteismo. Se poi pensiamo che, già nel primo versetto della Bibbia, troviamo un soggetto plurale coniugato con un verbo al singolare, possiamo immaginare la situazione di imbarazzo di chi non voglia considerare la possibilità di un Dio pluripersonale, visto che non si tratta, ovviamente, di un errore. Vi sono varie interpretazioni di questo versetto, ma nessuna di queste è soddisfacente, in quanto tutte creano più problemi di quanti ne risolvono. Dobbiamo rimarcare un dato che proviene dalla filologia e che conferma la pluripersonalità in seno all'unico Dio di Israele. Nella Bibbia ebraica la definizione del nome di Dio è espressa in prima persona. La Settanta rende l'espressione con «Io sono l'esistente». Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che la formula fosse originariamente in terza persona e recitasse «Noi siamo quelli che siamo». Questi aspetti non possono essere ignorati da chi desidera conoscere la divinità degli ebrei e dei cristiani. Proprio perché vi è una pluripersonalità nell'unica divinità di Israele e dei cristiani, troviamo nel libro della Genesi espressioni in forma plurale riferite all'unico Dio anche in seguito. Ascoltiamo. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. È l'Elohim, la divinità, che dichiara di creare l'uomo e che per poterlo creare simile a se stesso, egli deve crearlo maschio e femmina, cioè una pluralità di personalità. In seguito apprendiamo che l'autore materiale di questa pluralità è Yahweh. Infatti, leggiamo sempre nel libro della Genesi, Yahweh, Elohim formò, cioè plasmò, l'uomo. Questa espressione mette in evidenza che non è stata tutta la Deità, cioè l'Elohim, a creare l'uomo. L'idea, penso che sia nata dalla errata traduzione «Dio il Signore formò l'uomo», ma è stato Yahweh, che sussiste in una divinità al plurale. L'affermazione Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, va intesa in questo modo, cioè che Yahweh creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine dell'Elohim, cioè della divinità. Questo particolare, in seguito, ci servirà per comprendere il messaggio del Vangelo. La pluralità della divinità di Israele e degli ebrei è evidente nella trasgressione di Adamo. Ascoltiamo. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Ho chiesto spiegazione degli ebrei di questa espressione al plurale, e cioè che l'uomo è diventato come uno di noi. E mi è stato risposto che Yahweh in quel momento parlava con degli angeli. Una simile interpretazione è poco credibile, perché l'uomo è stato creato di immagini di Dio e non di altre creature. La spiegazione invece è un'altra. Con la trasgressione l'uomo è diventato come uno dei componenti della plurisoggettività dell'Elohim, cioè Cristo, e conseguentemente a tale condizione egli conosceva il bene e il male. Anche con una natura peccatrice, l'uomo è rimasto comunque ad immagine e somiglianza di Dio. La polideità della divinità di Israele è indiscussa anche nell'episodio della Torre di Babele. Ascoltiamo. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà a loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Nel racconto della Torre di Babele abbiamo la stessa peculiarità grammaticale. Yahweh parla al plurale. Dunque, nella sua pluralità, Elohim, nella persona di Yahweh, scende e confonde gli uomini. Notiamo che il verbo scendere indica uno spostamento di luogo ad un altro, e questo è possibile solo se vi è una fisicità. Ma di questo ne parleremo in altre trasmissioni. Infine, troviamo la pluralità di Dio anche la chiamata di Isaia. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Dunque, una persona delle tre persone che sussistono nella pluralità divina si chiede chi avrebbe mandato per tutti. Ormai non vi sono dubbi. Il termine Elohim non è solo un nome al plurale. Esso esprime realmente una molteplicità presente in seno alla divinità rivelatasi al popolo dell'Eterno. Ma vi è anche un altro aspetto molto importante. La pluripersonalità dell'Elohim non è evidente solo nelle sue affermazioni, ma anche nei primi cinque libri della legge, la Torah, essendone Yahweh stesso in gran parte l'autore. E questo sarà il prossimo argomento che tratteremo. A risentirci, a presto. Ciao a tutti.